Abbiamo in collegamento Antonello, un operaio minatore della Carbon Sulcis. Ciao Antonello. Buongiorno a tutti voi. Allora, io voglio precisare una cosa. Innanzitutto, nella miniera Carbon Sulcis non è il feudo della CISL, perché nelle ultime elezioni RSU ha vinto tranquillamente la CGIL alla grande. E poi quello che ha rilasciato ieri, io sono stato informato, le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore di Ostia evidentemente sono confusionarie, nel senso che noi minatori del Sulcis le ultime lotte a Roma con manganellate e prese anche dal sottoscritto sono state fatte nel 1995 e nel 94, e Bonanni in quel tempo lì neanche non so dove fosse, probabilmente. Quindi ha confuso forse i minatori del Sulcis con altri lavoratori del Sulcis, ma non minatori, e su questo voglio precisare. Però diciamo che noi lavoratori del Sulcis siamo stati sempre, soprattutto i minatori, siamo stati sempre la forza più combattiva e cosciente del movimento operaio sardo, e non solo sardo, perché basta a pensare da Buggero in poi noi abbiamo fatto grandi lotte. Negli anni 60 i minatori hanno fatto le lotte contro il ministro Scelba, e nel 94-95 noi a Roma abbiamo fatto grandissime lotte. Io ricordo solo quella del 95 dove c'era ministro, cioè diciamo presidente del consiglio Dini, Dini era un ministro sempre di tecnici come quello attuale, e c'era al Ministero degli Interni un certo Coronas che diede proprio l'input di manganellare i minatori. Quindi noi siamo sempre stati dalla parte appunto delle lotte, quindi questa dichiarazione mi suona un po' strana, anche perché noi quando ogni qualvolta siamo arrivati a Roma, per esempio, siamo stati sempre aperti a tutte le istanze. Cioè io ricordo che si univano alle nostre lotte, per esempio, anche i centri sociali di Roma e tante altre persone, proprio perché noi abbiamo sempre cercato di unire e di essere vicino a tutto il popolo. Ultime iniziative che abbiamo fatto con i minatori, per esempio, sono state quelle della solidarietà con i minatori spagnoli. Il sottoscritto ha fatto anche una conferenza stampa con dei minatori spagnoli a Roma. Quindi queste accuse qua mi sembrano un po' fuori luogo. Evidentemente il signore di Ostia ha confuso con altri lavoratori dei Sulcis, però se anche questi lavoratori si sono comportati in tal senso, evidentemente non sono dei grandi lavoratori, ma sono persone che evidentemente non hanno una grossa intelligenza. Senti, mi permetto di insomma ricordare che forse a questo punto ritengo che si riferisse ai lavoratori dell'Alcoa, perché insomma mi sembra è successa a Roma l'ultima volta che sono venuti, solamente la parte della CISL dell'Alcoa che ha cacciato via dal corteo non solo quel compagno là, insomma, ma altri compagni. Purtroppo è successo, magari era questo il fatto a cui si riferiva. Appunto. Però io ti chiedo, insomma, anche perché secondo te l'Alcoa, che adesso ha chiuso tutte le celle produttive, si sia comportato, cioè anche la classe operaia, insomma quella parte di classe operaia del Sulcis, che è rappresentata anche maggiormente dagli operai e dell'Alcoa, stia un po' rifluendo in sé, richiudendosi in sé, e comunque purtroppo anche quella lotta là non sta producendo più un conflitto alto che è riuscito in questi ultimi anni quantomeno a mantenere una toppa, insomma, al problema. Allora, secondo me questi operai dell'Alcoa, a me dispiace dirlo, però sono operai che probabilmente hanno creduto in Berlusconi, hanno creduto in Cappellacci, hanno creduto nel PDL, adesso che si trovano praticamente licenziati, e presi per i fondelli da tutti, ce l'hanno contro tutto il mondo. Quindi io quello che volevo dire è che bisogna scindere i minatori Carbosulcis da questi operai della CISL, perché se hanno fatto una cosa del genere hanno sbagliato, perché non è nel metodo dei minatori, per esempio Carbosulcis, e dei lavoratori dei Sulcis, e neanche della vecchia scuola operaia del Sulcis, che ha sempre fatto, diciamo, da maestra come lotte operaie in tutta Italia. Cioè, il mio padre non si sarebbe mai permesso di mandare via un altro operaio, tanto per essere chiari, e mio padre prendeva le manganellate dai poliziotti quando c'era Scelba, tanto per chiarirci. Quindi questi operai qua, secondo me, a me dispiace, però sono delusi, e quindi ce l'hanno contro tutto il mondo, perché credevano in Berlusconi, hanno creduto che Berlusconi gli risolvesse i problemi, che Cappellacci gli risolvesse i problemi, invece li hanno presi per i fondelli. E poi, se posso dirla tutta, parte sindacale e parte politica dei Sulcis Iglesiente tempo fa diceva: privato è bello, col privato viviamo bene. Invece è andato tutto il contrario, era Lumina, Rusal chiusa, Rockwool azienda danese chiusa, Alcoa azienda americana chiusa, probabilmente anche la Porto Vespa SRL, che è gestita dalla Glencore, che è un'azienda svizzera, probabilmente fra un po' chiuderà. Mentre Sulcis, nel suo piccolo, diciamo, è ancora sotto quota regione, e tutti sorridevano su Carbosulcis: ah, voi siete ancora gli assistiti dallo Stato, dalla regione, quella, però Carbosulcis ancora sopravvive, non so fino a quando, però se eventualmente ci diranno che dovranno chiudere, noi minatori, cioè, siamo abituati a comportarci come abbiamo sempre fatto e come la storia ci ha insegnato. Senti, approfitto dell'ultima parte del tuo intervento appunto per chiederti quali sono gli aggiornamenti, come è finita quella lotta lì, che è andata anche sui media e poi è sparita, avete vinto oppure no, insomma, state ancora in una fase di stallo, com'è la vertenza? Ma tu cosa parli? Della lotta? No, della vostra lotta alla Carbosulcis. Sì, sì, sì, sì. No, la nostra, diciamo, occupazione è stata solo un anticipo nei tempi, nel senso che Alcoa e altre ditte si sono addormentate, noi abbiamo giocato un po' in anticipo, però non abbiamo ancora vinto niente, perché ancora niente è chiaro, e siamo in attesa ancora di notizie. Io, per esempio, sono pessimista, nel senso che le notizie che arrivano non sono buone, e c'è una specie di scarica barile, Bava, nel senso che la regione Sardegna scarica sul governo nazionale, il governo nazionale scarica sull'Unione Europea. E secondo me la Carbosulcis alla fine avrà una chiusura lenta, anche perché la maggior parte degli operai ormai hanno una certa età, e i giovani, un'ottantina, questa è la mia proposta, potrebbero essere utilizzati sempre all'interno della Carbosulcis, installando per esempio un centro di ricerca di polo energetico, perché abbiamo dei tecnici sardi veramente capaci, oppure anche il turismo minerario e quant'altro. Però questo nel tempo, penso, perché il governo Monti, praticamente, il governo dei banchieri, dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale, sta lavorando pian piano perché a costoro non gli interessa neanche dei voti e di quant'altro, loro devono curare determinati interessi, quindi hanno deciso che il Sulcis deve essere certificato, quindi dopo la chiusura di Alcoa decideranno se sarà il caso di chiudere Porto Vesle SRL o Carbosulcis. Solo che chiudere una miniera è più complicato, perché la miniera va messa in sicurezza, la miniera comunque è sempre l'unica miniera di carbone, teniamo presente, l'unica miniera di carbone in Italia, quindi è anche una fonte energetica nazionale, e quindi è più difficile chiuderla come hanno chiuso l'Alcoa, ci vuole del tempo. Gli operai comunque hanno una certa età, quindi io penso che useranno qualcosa anche per chiudere, però la miniera potrebbe essere usata o in locali per altre cose interessanti, tipo, come ho detto prima, un centro di ricerca, o anche interessa tantissimo anche il turismo minerario, cioè turisti che per esempio scendono in sottosuolo a meno 400 e hanno dei ciceroni che gli spiegano tutta la storia delle miniere, che è poi la vita del Sulcis, perché sono quelle che hanno portato comunque lavoro, e una storia che va comunque salvaguardata e anche studiata, e secondo me ci dovrebbe essere anche dei personaggi, scrittori, intellettuali, che dovrebbero scrivere dei libri, perché ci sono delle cose veramente interessanti all'interno della miniera, anche per quanto riguarda le lotte, certe figure operaie, eccetera eccetera. Senti, questa è la mia opinione proprio sincera. Senti, io mi ricordo stavo dicendo, poi ti lascio la parola. Sì, dimmi. Io fino a luglio ero un RSU Carbosulcis, poi mi sono dimesso prima di quell'occupazione, e la dico tutta qua, perché avevo già capito che quella occupazione doveva essere strumentalizzata dall'onorevole Pili del PDL e da altri personaggi squallidi, quindi mi sono dimesso, anche perché il mio sindacato, invece di sostenere il sottoscritto, sosteneva personaggi oscuri all'interno dell'RSU. Questo volevo precisare. Senti, io, se non mi ricordo male, si parlava di una riconversione dell'intero sito produttivo per continuare a produrre energia, ma quella proposta che fine ha fatto? Guarda, quella proposta è ancora in atto, è la proposta praticamente della cattura e lo stoccaggio della CO2, però è una proposta molto costosa, impossibile, e quindi se noi la stiamo rilanciando o qualcuno la rilancia, tipo spot, perché già quel progetto lo sta attuando l'Enel, cioè stoccaggio della CO2, cattura e stoccaggio della CO2, lo sta già attuando l'Enel a Porto Tolle in Veneto. E non dimentichiamoci che chi gestisce in Sardegna l'energia sono Enel, Eni e soprattutto anche la Carasaras, che produce il gas in Sardegna e poi fa pagare le bollette il doppio di quelle che costano per esempio in Sicilia.